Falco e il Gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Hai mai seguito il volo di un falco o di un gabbiano? Traiettorie ardite nel vento, dentro al cielo lontano. Io sono così e ho voglia di volare, mentre dico che ti avrò e ti avrò. Cosa c'entrano gli Inuit e l'Alto Commissariato per i Rifugiati? Sembra incredibile, ma c'è un filo rosso, anzi in questo caso un fil rouge, che li lega. Ed è la vita di un norvegese nato a fine 800. Perché oggi vi racconto la storia di Fridtjof Nansen. È un uomo che ha dimostrato con i fatti di essere un grande scienziato, ma soprattutto un portatore di pace e di uguaglianza. È un uomo che ha insegnato a chi gli stava attorno a rispettare l'ambiente e il silenzio dei paesaggi. Ma è anche l'uomo che ha creato l'Alto Commissariato dell'ONU per i Rifugiati, che oggi è più che mai attivo sulla scena internazionale. Fridtjof Nansen nasce vicino a Christiania, all'attuale Oslo, il 10 ottobre del 1861. Viene mandato in una scuola privata e si distingue in tutte le materie, dalle lingue classiche alla matematica e naturalmente alle discipline sportive. In particolare si dedica, come molti in quei paesi, sia allo sci di fondo che al pattinaggio. Ottiene buoni successi in entrambi gli sport, tanto che a 18 anni conquista il record mondiale di pattinaggio sul miglio, quindi un uomo dai tanti talenti, come conferma anche uno dei suoi traduttori che ha curato le edizioni dei suoi libri in Italia, lo scrittore Davide Sapienza. Nansen rappresenta a fine 800 un vero uomo rinascimentale, un uomo multidisciplinare, un ragazzo molto intelligente che si impegna su tanti fronti, vorace rispetto alla conoscenza delle cose. Per lui la natura diventa una cosa fondamentale. E quello che impara un norvegese, o comunque uno scandinavo in generale, o in certi luoghi del mondo, è quello di avere una relazione che ti permette di essere parte del mondo naturale. Ovviamente lui è un ragazzo, quindi pratica degli sport, studia, come hai detto giustamente, è uno studente molto dotato, di grande intelligenza, e fondamentalmente ha davanti a sé la possibilità di fare qualsiasi cosa. Nel 1880 Fridtjof Nansen sostiene l'esame di ammissione all'Università di Christiania, intraprende gli studi di zoologia e a 19 anni non può immaginare che nel 1922, dopo i viaggi di studi, le spedizioni e i libri e il ruolo di ambasciatore a Londra, sarebbe diventato un premio Nobel per la pace. Intanto siamo nel 1882, l'università capisce le sue grandi potenzialità e gli prospetta l'opportunità di imbarcarsi su una nave nell'Artico, una nave per la caccia alle foche, però lui ha l'incarico di campionare le forme di vita marina. È un viaggio di 4 mesi, però poco prima della partenza intanto Nansen si distingue in una gara di sci, la combinata di salto, risalita, discesa e fondo, e quella performance giovanile lo inserirà di diritto tra i pionieri dello sci moderno. Proprio in quel frangente lui comprende che gli sci, che sono un mezzo di trasporto più antico della ruota, possono essere un'opportunità durante le future spedizioni artiche. E stiamo parlando di uno che ha solo 21 anni. 1882. Abbiamo preso il mare esattamente mentre il sole sorgeva maestoso sulle isole. Le ho lasciate con una strana sensazione e l'idea che stavo consegnando monti e foreste al mare e alle sue onde. Per la prima volta quella primavera non avrei vagabondato tra le conifere della mia terra. Non avrei assorbito l'aria primaverile che ha in sé quel meraviglioso e invincibile senso della vita che torna. È così che questo ventenne naviga nell'oceano artico, dove viene stregato dalla natura e incoraggiato a studiare le terre polari. Navigando a lungo in queste acque sconosciute avrebbe visto di cosa era capace il mare quando ghiaccia, e si appassiona, e questa esperienza segna il suo destino. Sale come passeggero, ma durante i lunghi mesi sul mare svolge molti lavori manuali a fianco dei marinai. Però durante la navigazione si esercita nella pittura, riprendendo molte situazioni di vita a bordo, dalla pesca alla cattura delle foche. Caccia, però ammira i grandi ghiacciai della Groenlandia e gli enormi iceberg che si incontrano durante l'attraversamento del canale di Danimarca tra la Groenlandia e l'Islanda, e il fascino del deserto di ghiaccio lo conquista per sempre. All these accidents that happen, follow the dot, coincidence make sense only with you. You don't have to speak, I feel emotional landscape. Così Fridtjof Nansen si conquista un posto molto ambito, ricercatore presso il Museo di Bergen, che è la seconda città della Norvegia. È un lavoro che gli piace, però non gli piacciono gli inverni senza neve della costa occidentale. Così nel 1884, a 23 anni, attira l'attenzione di tutto il paese perché attraversa sugli sci le montagne da Bergen fino a Christiania per partecipare alle gare di salto e di fondo. Stiamo parlando di 500 chilometri sulla neve. A noi sembra incredibile, ma per lui era normale. Lui decide di fare questo viaggio perché così si allena, nel senso che nel suo diario dice: vabbè, intanto mi alleno per fare le gare di salto, poi quando arrivo a Oslo mi sistemo. Sembra una cosa impossibile, quasi da bullo, ma non dobbiamo dimenticare che Nansen anche fisicamente era dotato a dei livelli straordinari, e lo dimostrerà nelle spedizioni seguenti, quelle che l'hanno reso poi famoso come esploratore. Quindi lui decide di fare questo viaggio con la sua cagnolina e si muove quasi senza delle mappe, con questo spirito molto libero nella natura. Attraversa il grande altopiano dell'Hardangervidda, che è un luogo straordinario, e dopodiché si dirige verso Oslo. Quindi una passeggiata di 500 chilometri sugli sci e una vita piena di interessi, perché intanto visita la Germania, la Svizzera e l'Italia, incontra eminenti studiosi del suo campo, ma lui continua a pensare che vuole diventare il primo uomo a compiere la traversata della Groenlandia sugli sci. Inizia a sentire il richiamo delle regioni polari. Viene sponsorizzato da un facoltoso uomo d'affari danese e organizza una spedizione che per la prima volta punta a attraversare la calotta polare della Groenlandia da est a ovest, e ha solo 27 anni. Parte il 5 giugno 1888 e inaugura uno dei suoi comandamenti: non concedersi vie di fuga. La spedizione non ha modo di tornare indietro, si dirige verso l'ignoto. Il falco e il gabbiano. Abbiamo lasciato Fridtjof Nansen, 27enne, che sta tentando di attraversare la calotta polare della Groenlandia da est a ovest con gli sci, insieme a due lapponi e a tre norvegesi come lui. L'attrezzatura è studiata nei dettagli, però scarseggiano i fondi. Vengono scelti i sacchi a pelo di renna, slitte leggere, appositi occhiali costruiti con vetri affumicati, perché se si va da est a ovest tutto il giorno hai il sole in faccia. Una imponente attrezzatura da sci a cui Nansen dedica un intero capitolo del suo resoconto, che possiamo leggere nel libro Nel cuore della Groenlandia, la prima traversata con gli sci. Tra tutti gli sport, in Norvegia lo sci è il più nazionale e caratteristico. Non credo di esagerare dicendo che per questa pratica reclamo una posizione di primo livello tra gli sport di tutto il mondo. Non conosco un'attività sportiva che sviluppa i muscoli in maniera così uniforme, che rende il corpo forte ed elastico, che insegna tanto bene le qualità di destrezza e iniziativa, che richiede allo stesso modo decisione e determinazione e che dà lo stesso vigore ed euforia alla mente e al corpo. Beh, ricordiamoci che siamo alla fine dell'Ottocento, quindi ancora agli albori nell'uso di questa attrezzatura. Come poi si apprenderà, molti esploratori non avevano mai avuto una preparazione adeguata al loro utilizzo. I nostri sci non erano di nessun modello norvegese, ma erano stati progettati apposta per adattarsi alla natura del terreno e alle condizioni della neve che mi aspettavo di trovare nell'Inlandis groenlandese. Ne abbiamo portate con noi 9 paia, 2 di quercia e il resto di betulle. Gli sci di quercia erano lunghi 2,30 m, larghi 8 cm e mezzo sulla curvatura in punta e 8 cm sotto il piede. Gli attacchi che abbiamo usato erano molto semplici e consistevano di un laccio sulla punta di pelle spessa e rigida e di una cinghia più larga di pelle più morbida che passava dietro il tacco. La mia esperienza mi dice che in questi lunghi viaggi meno si è consapevoli della pressione dell'attacco, meno si ricorre alle riserve di energia. A proposito degli sci di legno, lo stesso Nansen racconta che lui e i suoi compagni erano soliti masticare piccoli pezzi di legno staccati dagli sci in modo da avere sempre la bocca umida. Nessuno sa quanti sci siano stati consumati e erosi da questa procedura. Grazie a questa impresa, dove Nansen e i suoi compagni trascorrono mesi a conoscere il popolo Inuit, lui diventa famoso sia in patria sia all'estero. Al loro rientro, il 21 maggio 1889, vengono accolti da grandi festeggiamenti e si pongono le basi per la nascita di un altro futuro esploratore polare. È Roald Amundsen, che allora è 17enne ed è folgorato dalla voglia di emulare Nansen e di raggiungere il polo nord. Nonostante sia ormai un affermato scienziato e esploratore di fama mondiale, Nansen non riposa sugli allori. Vuole raggiungere anche lui il polo nord e lo vuole fare a bordo di una imbarcazione in grado di lasciarsi trasportare dalle correnti oceaniche, attraversando il mare glaciale artico, sempre da est a ovest. La maggior parte del suo progetto viene finanziato dal governo norvegese, perché in quel periodo il sentimento nazionale della Norvegia è al culmine. Per rafforzare la sua posizione nell'unione con la Svezia, il paese ha bisogno di eroi nazionali propri. Noi non partiamo per cercare l'esatto punto matematico che costituisce l'estremità più a nord dell'asse terrestre. Raggiungere questo punto è intrinsecamente poco importante. Il nostro obiettivo è quello di investigare la grande regione sconosciuta che circonda il polo. Queste ricerche avranno la stessa rilevanza scientifica sia che la spedizione passi sul polo, sia che vi passi a una certa distanza. Così Nansen progetta la nave polare Fram, che è disegnata per resistere alla pressione dei ghiacci. Ed è così che il 24 giugno 1893 lui lascia la casa, lascia sua moglie Eva e la piccola Liv, di cui è padre da soli 6 mesi. È una delle dolorose scelte che molti esploratori, molte persone di quel genere sono costretti a fare per rispondere al loro richiamo interiore. Teniamo presente che lui, anche quando ha attraversato la Groenlandia, non si sapeva se sarebbe ritornato. Ecco, è sempre un fatto personale di scelta, a discapito di, però insomma lì si può trovare un accordo familiare. Vabbè, in questo caso di Nansen è andato tutto bene, è ritornato e ha potuto ricongiungersi alla famiglia, però è una scelta dolorosa e, se si vuole, anche egoistica, a sacrificio di una vita privata. Queste sono le parole di Aldo Scaiano, che è presidente del Circolo Polare Milano e autore della biografia di Nansen, ora pubblicata da Biblion Edizioni. Nansen si dice molto preoccupato perché lascia la famiglia e non sa cosa lo aspetta in futuro. Così Nansen salpa a bordo della nave Fram, lascia Christiania e si dirige verso Bergen. Dopo alcuni mesi lui lascia che il PAC imprigioni la Fram a nord della Siberia, sperando che, sfruttando le correnti marine, vada alla deriva fino al polo o nelle sue vicinanze. Ma questo non succede. Però in quei mesi si tempra giorno dopo giorno il futuro commissario per i rifugiati, perché si plasma quella sensibilità che lo avrebbe reso più tardi capace di risolvere i conflitti umani, le carestie, l'esodo, la dispersione di intere popolazioni, perché lui tutte queste cose le sta sperimentando sulla sua pelle. Dopo 18 mesi Nansen e Johansen lasciano la nave con una squadra di cani e slitte. Non raggiungeranno mai il 90° grado nord, ma faranno il record di latitudine superando la latitudine estrema a nord, 86 gradi e 10 secondi. Loro iniziano questo cammino sui ghiacci nel 1895, quindi dobbiamo pensare a un periodo incredibile in cui loro cercano di arrivare verso il polo nord, esplorano, in base alle mappe precedenti ci sono degli errori dovuti a delle mappe di Payer, in particolare un altro straordinario personaggio austriaco, e poi a un certo punto capiscono che devono fermarsi perché sennò moriranno, quindi cacciano, perché chi eccetera eccetera, e si costruiscono una specie di casetta di pietra dove praticamente vivranno sdraiati, vanno in letargo letteralmente, tant'è vero che quando nella primavera dell'anno seguente loro escono dal letargo sono ingrassati. Giovedì 9 maggio 1895, il ghiaccio è indubbiamente di natura diversa da quello trovato in precedenza. È meno liscio e sono più frequenti vecchi e nuovi canali sgombri con creste e detriti. Ogni cosa sembra indicare che siamo vicini a terra. Intanto il tempo passa e i cani diminuiscono. Ne restano 12, perché ieri è stata uccisa Kat. Pian piano calano anche le provviste, ma grazie al cielo ne abbiamo ancora molte. La prima tolla di petrolio, 11 litri, è finita 3 giorni fa e presto finirà la seconda sacca di pane. Non facciamo che scandagliare l'orizzonte alla ricerca di terra, ma non vediamo nulla, nemmeno quando mi arrampico sulle collinette più alte a cercare con il cannocchiale. Sono mesi di grande difficoltà. Poi i due norvegesi incontrano una spedizione inglese guidata da Frederick George Jackson. È il giorno della salvezza, il 17 giugno 1896. Sono trascorsi 17 mesi dalla partenza dei due esploratori. Falco e il Gabbiano. Stiamo raccontando la storia di Fridtjof Nansen. Parte come atleta, studioso, pittore, ma soprattutto esploratore. E ormai nel 1905 lui è un uomo famoso. Dopo la sua missione esplorativa tra i ghiacci del Polo è diventato una persona, diciamo, che può rappresentare la Norvegia. E questo è molto utile, perché nel frattempo i rapporti tra Norvegia e Svezia si sono incrinati. Sempre più norvegesi caldeggiano l'indipendenza. Così nel 1905, quando l'Unione è ormai dissolta, Nansen viene nominato primo ambasciatore di Norvegia a Londra. La stampa inglese lo definisce il ministro che arriva dal Polo Nord. Ma perché viene scelto proprio lui come ambasciatore? Perché era innanzitutto conosciuto a livello internazionale, lui aveva svolto molte conferenze in base alle sue spedizioni, quindi conosciuto, apprezzato, soprattutto nell'area anglosassone, primo. Secondo, ha favorito quello che è stata una transizione pacifica del distacco dalla Norvegia rispetto al Regno di Svezia, attuando una mediazione con le autorità svedesi e le nuove autorità norvegesi. Questo è quello che ci racconta il suo biografo ufficiale Aldo Scaiano. Ma le scrivanie dell'ambasciata vanno strette a Nansen, che si dimette molto presto perché progetta una spedizione stavolta al Polo Sud. Le sue speranze però vengono infrante, le speranze di diventare il primo uomo a raggiungere il Polo Nord e il Polo Sud, dalle notizie che arrivano dalla spedizione di Peary del 1909 e di quella di Amundsen del 1911. Qualcuno diceva di avercela fatta prima di lui. ma nel frattempo scoppia la prima guerra mondiale, le cose cambiano un'altra volta, il Nansen viene riportato alla politica, viene nominato presidente della delegazione norvegese della Società delle Nazioni e partecipa addirittura alla conferenza di pace di Versailles nel 1919. On June 28, 1919, the Big Four announced the signing of the Treaty of Versailles. The Big Four, Lloyd George, Orlando, Clemenceau, and Wilson, turned out to be four older, very tired men. Faced with insoluble conflicts, they had struggled to unsatisfying compromises. The rest was up to history. Finita la guerra c'è una situazione un po' complessa perché la Russia trattiene ancora 250.000 prigionieri, mentre i prigionieri russi in Germania sono almeno 200.000. Bisogna organizzare uno scambio e la Società delle Nazioni nomina proprio Hansen alto commissario responsabile dello scambio di questi prigionieri. Lo scambio di 200.000 prigionieri con 250.000 non è uno scambio, è un esodo. Bisogna trovare i fondi e le navi per rimpatriarli. E questo è il compito di Nansen, che riesce, grazie alla popolarità di cui gode in Gran Bretagna, a convincere il governo di quel paese a concedere prestiti per finanziare questo scambio. Inoltre induce i britannici a dissequestrare le navi tedesche requisite durante la guerra affinché siano utilizzate per trasportare i prigionieri sull'altra sponda del Mar Baltico. Ma mentre si organizzano gli scambi, la Russia viene colpita da una violentissima carestia. Qui c'è un appello di Nansen che di fronte a tanta povertà deve scontrarsi con lo scetticismo dei governi occidentali che temono che gli aiuti alimentari possano rafforzare il regime comunista. Nansen è di parere opposto, sostiene fermamente che un boicottaggio economico dell'Unione Sovietica, oltre a aggravare le sofferenze della popolazione russa, già prostrata dall'avvento del comunismo, ostacola i commerci tra la Russia e il resto dell'Europa. In Canada i raccolti sono così abbondanti che il paese potrebbe esportare il triplo della quantità di grano sufficiente a scongiurare i terribili esiti della carestia in Russia. Negli Stati Uniti le eccedenze di grano marciscono nelle fattorie. In Argentina il surplus di mais è tale che viene bruciato come carburante per le locomotive. In Gran Bretagna, in Europa, in America, navi da carico arrugginiscono inutilizzate negli ormeggi. Intanto a est, decine di milioni di esseri umani si trovano davanti alla prospettiva di dover morire di fame. Possono essere salvati tutti se i governi vorranno concedere un prestito a nome della Società delle Nazioni, i cui beneficiari saranno i marinai britannici, gli agricoltori americani e argentini. Beh, questa situazione è un triste presagio di tutto quello che succederà nel Novecento. Metà del mondo che muore di fame e metà del mondo che muore di indigestione. Intanto con queste parole Nansen chiede un prestito di 5 milioni di sterline per fronteggiare la carestia russa del 1921. Ma i diplomatici non riescono a prendere una decisione, indicano una conferenza intergovernativa e Nansen va a fare un ultimo tentativo per convincerli. Bando all'ipocrisia, guardiamo in faccia la realtà. I governi non possono darci 5 milioni di sterline, non possono mettere insieme l'equivalente del costo di mezza corazzata. Siamo davvero disposti a permettere all'inverno di far tacere per sempre questi milioni di voci che invocano il nostro aiuto? Se mai avete avuto l'esperienza di combattere la fame, di combattere le forze orribili dell'inverno, capirete cosa significa. Sono convinto che vi sarà impossibile starvene seduti e rispondere freddamente che vi dispiace, ma non potete aiutare. Niente da fare, le sue parole non convincono. I governi votano contro il prestito e secondo le stime di Nansen per quel voto morirono 7 milioni di persone, oltre il doppio degli abitanti della Norvegia di allora. Nelle nell'estate del 1922 gli ultimi soldati tedeschi e austro-ungarici fatti prigionieri dai russi rientrano in patria, traghettati da una sponda all'altra del Mar Baltico, e nel frattempo, tornando indietro, le navi trasportano gli altri, gli ultimi prigionieri di guerra russi dalla Germania. In meno di 2 anni vengono scambiati oltre 400.000 prigionieri. Il merito di questa impresa viene attribuito a Fridtjof Nansen, nominato dalla Società delle Nazioni primo alto commissario per i rifugiati. Il cosiddetto passaporto Nansen diviene il documento che legittima l'identità della persona, ridandole la dignità di cui ha diritto. È un lasciapassare emesso dalla Norvegia come nazione sovrana ed è riconosciuto e legittimato da più di 50 nazioni. Pensate che questo documento ha permesso ad artisti russi come Igor Stravinsky, Marc Chagall e Anna Pavlova di cominciare una nuova vita in Occidente. Nell'autunno dello stesso anno Nansen è insignito del premio Nobel per la pace. E nella motivazione vengono sottolineati il suo impegno per il rimpatrio dei prigionieri di guerra e la sua capacità di appellarsi all'opinione mondiale con la forza propulsiva e vivificatrice dell'amore per il prossimo. Si ricordano inoltre la sua tenacia, la sua abnegazione, certamente derivata dalle sue esperienze straordinarie di esploratore polare. Perché quando sul campo si conquista un'esperienza e una conoscenza di questo genere, poi si può, se si vuole e se si sa, fare delle cose anche per gli altri. In una lettera privata Nansen scrive così: trovo assai strano e non riesco a spiegarmi come sia nata tutta questa storia del Nobel per la pace. In realtà sono stato spinto per puro caso a impegnarmi in questa attività che non mi apparteneva. Dopo il conferimento del premio, Nansen continua a dedicare tutte le sue energie al lavoro per la Società delle Nazioni e negli ultimi anni della sua vita si adopera per procurare un insediamento in terra sovietica a un altro popolo che è stato martoriato nel Novecento, cioè il popolo armeno. I rifugiati armeni fuoriusciti dalla Turchia ottengono la protezione giuridica dell'alto commissario. Nansen si batte anima e corpo per la causa armena, ma questo impegno lo lascia quasi senza forze. È intento a preparare una trasvolata indirigibile dell'Artico, ma nel maggio 1930 la sua immensa energia lo tradisce. Muore di infarto 6 mesi prima del suo 70° compleanno. A Nansen vengono riservati i funerali di Stato e oltre 100.000 persone partecipano al corteo funebre il giorno della festa nazionale della Norvegia, il 17 maggio. Nansen viene ricordato come un uomo giusto tra i giusti per la sua straordinaria e versatile opera scientifica, umanitaria, pacifista, per la sua generosità. Aldo Scaiano, presidente del Circolo Polare di Milano, ne sottolinea l'estrema attualità. Ciò che ha creato è molto attuale, riconosciuto uomo giusto tra i giusti, ecco, quindi abbiamo questa attualità proprio di Nansen. L'UNHCR, che oggigiorno come organismo ONU è presente in tutto il flussi migratori dei migranti, degli esuli, dei clandestini, ecco, dei rifugiati, quindi secondo me è l'attualità di Nansen, che ciò che ha creato, ciò che ha impostato oggi è molto attuale. Ecco cosa ha insegnato Nansen a Davide Sapienza, che ha curato la traduzione dei suoi libri in Italia. Un essere umano che parte con una dotazione di intelligenza e di sensibilità visionaria e di voglia di innovazione, come era Nansen, che già appunto a 27 anni trascorre dei mesi sulla calotta polare groenlandese, dove peraltro giunge dopo settimane tentando di arrivarci con una barca, che poi trascorre tutto un inverno con gli Inuit e scrive un libro sulla cultura degli Inuit, e poi fa una spedizione come quella della Fram, che dura 3 anni, dove loro se ne stanno in giro praticamente 2 anni a piedi nei ghiacci che si sciolgono e devono dormire in una truna. Ti insegna ad avere un equilibrio, una centratura che solo un essere umano molto strutturato psicologicamente e culturalmente può affrontare. Questa capacità di guardare tutto nel momento, ma di vederlo proiettato avanti. Abbiamo raccontato la meravigliosa storia di Fridtjof Nansen, le sue tante vite da sportivo a viaggiatore e soprattutto a persona che ha saputo occuparsi dei più deboli, ha saputo difenderli fino ad arrivare a un meritatissimo premio Nobel per la pace. Beh, di storie come quella di oggi ce ne sono parecchie, noi abbiamo deciso di raccontarvele e abbiamo deciso di ascoltare il vostro parere. Fatelo, quindi insomma, se volete sapete dove trovarci. Ciao a tutti, a domani. Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Francesca Del Rosso.